che cazzo mi telefoni? Sono le 3:30 del mattino. Cazzadro. Sì, lo so, mi dispiace, ma ho il solito problema e non riesco a prendere sonno. E stavolta è parecchio difficile. Ma sto pensando in continuazione, è una settimana che faccio incubi. Sì, ma dai, cerca di stare tranquillo, dai. Dai, che domani sera ci troviamo e ne parliamo, ok? Sai cosa ne penso? Non puoi smettere di vivere per questa cosa, è difficile, ma si supera tutto. Ormai è passato più di un anno. Dormi, dai, domani devo andare a lavorare, dai. Sì, anch'io. Allora bene. Ma io... Ciao, domani, dai. Ma... Ciao, ciao. Speriamo bene. Vediamo di dormire. Punto e Radio SSG come ogni giorno vi augura un buon risveglio.